Benvenuti a tutti gli ascoltatori. Sono Jack e oggi esploreremo un tema che tocca la vita quotidiana di ognuno di noi. Vi siete mai chiesti perché i primi risultati che vedete su Google sono quasi sempre pubblicità? Per approfondire questo affascinante argomento, ho il piacere di avere con noi Marianna, esperta di economia digitale e studiosa delle dinamiche delle piattaforme online. Benvenuta, Marianna! Grazie mille per l'invito, Jack. È un tema cruciale che merita davvero un'analisi approfondita. Marianna, partiamo da una domanda fondamentale. Come siamo arrivati a questo punto in cui la nostra attenzione è diventata una delle risorse più preziose dell'economia digitale? Vedi, Jack, tutto parte da un concetto espresso brillantemente da Robert Simon già negli anni 70. In un mondo ricco di informazioni, la vera risorsa scarsa diventa l'attenzione. Oggi, questa intuizione è più vera che mai. È interessante come un'osservazione di 50 anni fa sia così attuale. Come si manifesta questo concetto nelle piattaforme digitali moderne? Le piattaforme digitali hanno sviluppato sistemi sempre più sofisticati per catturare e monetizzare la nostra attenzione. Prendiamo Google, per esempio. Se confrontiamo la pagina dei risultati di ricerca di 10 anni fa con quella di oggi, notiamo una trasformazione radicale. Puoi farci un esempio concreto di questa trasformazione? Certamente. Oggi, circa il 54% dei click su Google va ai primi 3 risultati. Ma quello che molti non sanno è che questi primi risultati sono sempre più spesso contenuti sponsorizzati, non i risultati organici più pertinenti. Questa è una rivelazione interessante, Marianna. Ma come influisce concretamente questa strategia sulla nostra esperienza di ricerca? È come entrare in un supermercato dove i prodotti sugli scaffali più visibili non sono necessariamente i migliori, ma quelli di chi ha pagato di più per quello spazio. Gli algoritmi delle piattaforme stanno gradualmente sostituendo i risultati organici con contenuti sponsorizzati. Mi sembra di capire che ci sia una sorta di conflitto tra la qualità del servizio e la monetizzazione. È così? Esattamente. Le piattaforme digitali si trovano in un delicato equilibrio tra due obiettivi contrastanti: fornire il miglior servizio possibile agli utenti e massimizzare i profitti. E sempre più spesso, la bilancia pende verso la monetizzazione. Ma questo non rischia di danneggiare la fiducia degli utenti nel lungo termine? È una domanda cruciale. Le piattaforme stanno sfruttando quello che chiamiamo bias posizionale, sapendo che gli utenti tendono a cliccare sui primi risultati. Possono gradualmente aumentare i contenuti sponsorizzati senza perdere troppo traffico. E questo fenomeno si limita ai motori di ricerca o si estende anche ad altre piattaforme? Si estende praticamente a tutte le principali piattaforme digitali. Prendiamo Amazon, per esempio, negli ultimi anni ha trasformato il suo marketplace in una vera e propria piattaforma pubblicitaria. Oggi, quasi tutte le raccomandazioni che vedi sono in realtà risultati sponsorizzati. Quindi stiamo parlando di un cambiamento sistematico nel modo in cui funziona l'economia digitale? Precisamente. Quello che stiamo osservando è l'emergere di quello che chiamo rendite dell'attenzione algoritmica. Le piattaforme utilizzano il loro potere algoritmico per estrarre valore sia dall'attenzione degli utenti che dall'ecosistema dei fornitori. Potresti spiegare meglio questo concetto di rendite dell'attenzione algoritmica? Certo. Immagina gli algoritmi come dei guardiani digitali che controllano l'accesso all'informazione. Questi guardiani hanno il potere di decidere cosa vediamo e in quale ordine. Le piattaforme monetizzano questo potere facendo pagare chi vuole ottenere visibilità. Mi viene in mente una citazione che hai menzionato prima sulla natura dell'autorità. Come si collega questo al concetto di autorità algoritmica? È un collegamento molto pertinente. Come diceva Simon, l'autorità può essere definita come il potere di prendere decisioni che guidano le azioni di un altro. Gli algoritmi delle piattaforme esercitano esattamente questo tipo di autorità, influenzando le nostre decisioni quotidiane in modo sempre più pervasivo. Questa autorità algoritmica sta evolvendo con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Come sta cambiando il panorama con l'introduzione di tecnologie come i modelli linguistici di grandi dimensioni? È una trasformazione significativa, Jack. Stiamo passando da un modello basato sulla ricerca attiva a uno basato su risposte preconfezionate. Prendiamo ChatGPT come esempio. Non si limita a mostrarti dove trovare l'informazione, ma te la fornisce direttamente. Questo sembra un cambiamento fondamentale nel modo in cui interagiamo con l'informazione. Quali sono le implicazioni? Le implicazioni sono profonde. Da un lato, questi sistemi rendono l'informazione più accessibile. Dall'altro, concentrano ancora più potere nelle mani di chi controlla questi algoritmi. È come passare dal possedere una mappa a seguire un navigatore GPS. Più conveniente, ma perdi il controllo sul percorso. Mi colpisce questa analogia del GPS. Stiamo quindi delegando sempre più le nostre decisioni a questi sistemi? Esattamente. E questo solleva una questione cruciale, la trasparenza. Come dice un principio fondamentale della regolamentazione digitale, non si può regolare ciò che non si comprende. Il problema è che questi sistemi stanno diventando sempre più opachi. Questo mi fa pensare al ruolo della regolamentazione. L'Europa sta facendo qualcosa in merito? Sì, l'Europa sta assumendo un ruolo di leadership in questo ambito. Il Digital Markets Act e il Digital Services Act sono passi importanti verso una maggiore trasparenza e responsabilità delle piattaforme digitali. Ma sono sufficienti queste regolamentazioni? Come possono gli utenti proteggersi in questo scenario? La regolamentazione è importante, ma non è sufficiente. Gli utenti devono sviluppare quella che chiamo consapevolezza algoritmica, capire quando e come le loro scelte sono influenzate da questi sistemi. Puoi darci qualche consiglio pratico per sviluppare questa consapevolezza algoritmica? Certamente. Il primo passo è riconoscere i contenuti sponsorizzati, che spesso sono sottilmente mascherati. Poi, è importante utilizzare diverse fonti di informazione e non affidarsi a una singola piattaforma. Infine, bisogna essere consapevoli che i risultati personalizzati possono creare una bolla informativa. Parlando di futuro, come vedi l'evoluzione di questo scenario nei prossimi anni? La tendenza è verso una sempre maggiore sofisticazione degli algoritmi di attenzione. Con l'IA generativa, le piattaforme potranno personalizzare ancora più finemente i contenuti per massimizzare il coinvolgimento. La sfida sarà mantenere un equilibrio tra innovazione e tutela degli utenti. C'è spazio per modelli alternativi? Per piattaforme che privilegiano la qualità rispetto alla monetizzazione? Assolutamente sì, e stanno già emergendo alcune alternative interessanti. Ci sono piattaforme che adottano modelli di subscription pura, eliminando completamente la pubblicità. Altre stanno sperimentando con sistemi di remunerazione diretta degli utenti per la loro attenzione. Questo mi fa pensare alla distinzione che hai menzionato prima tra l'attenzione guadagnata e l'attenzione pagata. Puoi approfondire questo concetto? L'attenzione guadagnata si basa sulla qualità reale dei contenuti e dei servizi. È più difficile da ottenere, ma genera risultati più duraturi e un valore autentico per gli utenti. L'attenzione pagata, invece, si basa su meccanismi artificiali di visibilità. Mi viene in mente il vecchio detto «chi paga il pifferaio sceglie la musica». Come possiamo garantire che ci sia ancora spazio per contenuti di qualità in un sistema dominato dalla pubblicità? È una sfida complessa che richiede interventi su più livelli. Da un lato, abbiamo bisogno di regolamentazioni che impongano maggiore trasparenza algoritmica. Dall'altro, dobbiamo educare gli utenti a riconoscere e premiare la qualità. Parlando di educazione degli utenti, quali sono i segnali che dovremmo imparare a riconoscere? Un primo segnale è la presenza sempre più invasiva di contenuti sponsorizzati. Un secondo è l'uso di pattern oscuri, cioè interfacce progettate per indurci a fare scelte che non avremmo fatto spontaneamente. Infine, dobbiamo prestare attenzione a come i nostri dati vengono utilizzati per personalizzare i contenuti. Questi pattern oscuri sembrano particolarmente preoccupanti. Puoi fare qualche esempio concreto? Pensa ai social media che ti mostrano notifiche false per farti tornare sull'app, o agli e-commerce che creano un falso senso di urgenza con timer countdown artificiali. Sono tutti meccanismi progettati per manipolare la nostra attenzione e le nostre decisioni. Come possiamo difenderci da queste manipolazioni mantenendo i benefici della tecnologia? La chiave è sviluppare quello che chiamo utilizzo consapevole. Questo significa stabilire limiti chiari nell'uso delle piattaforme, utilizzare strumenti di blocco della pubblicità quando possibile e, soprattutto, mantenere un approccio critico alle informazioni che riceviamo. Guardando al futuro, sei ottimista o pessimista riguardo all'evoluzione di questa situazione? Sono cautamente ottimista. Vedo una crescente consapevolezza di questi problemi, sia a livello istituzionale che tra gli utenti. Le nuove generazioni sono più attente e critiche verso le dinamiche delle piattaforme digitali. Quali sviluppi positivi vedi all'orizzonte? Vedo l'emergere di nuovi modelli di business più etici, una regolamentazione più efficace e soprattutto una maggiore consapevolezza collettiva. La tecnologia dovrebbe essere al servizio delle persone, non il contrario. Marianna, abbiamo coperto molti aspetti cruciali dell'economia dell'attenzione. Potremmo fare un riepilogo dei punti principali per i nostri ascoltatori? Certamente. Il primo punto fondamentale è che l'attenzione è diventata la risorsa più preziosa dell'economia digitale. Le piattaforme hanno sviluppato sistemi sempre più sofisticati per catturarla e monetizzarla attraverso quello che abbiamo chiamato rendite dell'attenzione algoritmica. E questo ha portato a cambiamenti significativi nel modo in cui le piattaforme operano, giusto? Esatto. Il secondo punto chiave è la trasformazione delle piattaforme da servizi orientati all'utente a sistemi di monetizzazione sempre più aggressivi. Abbiamo visto come Google, Amazon e i social media stiano privilegiando sempre più i contenuti sponsorizzati rispetto a quelli organici. E riguardo all'impatto dell'intelligenza artificiale in tutto questo? Questo è il terzo punto cruciale. L'IA sta portando a una nuova fase dell'economia dell'attenzione, dove il controllo algoritmico diventa ancora più sofisticato e pervasivo. Sistemi come ChatGPT stanno ridefinendo il nostro rapporto con l'informazione. Ma abbiamo anche parlato di soluzioni e possibili vie d'uscita. Sì, e questo è il quarto punto fondamentale. Esistono contromisure sia a livello individuale che sistemico. La regolamentazione europea sta facendo passi avanti, stanno emergendo modelli di business alternativi e cresce la consapevolezza degli utenti. Prima di concludere, hai un consiglio finale per i nostri ascoltatori su come navigare questo complesso panorama digitale? Il mio consiglio principale è di sviluppare quello che abbiamo chiamato utilizzo consapevole. Non dobbiamo demonizzare la tecnologia, ma utilizzarla in modo critico e consapevole, riconoscendo quando e come viene manipolata la nostra attenzione. Questo mi sembra un ottimo messaggio finale. C'è altro che vorresti aggiungere? Vorrei sottolineare che siamo in un momento cruciale. Le scelte che facciamo oggi come società riguardo alla regolamentazione delle piattaforme digitali e all'uso dell'IA determineranno il futuro della nostra esperienza online. È fondamentale partecipare attivamente a questo dibattito. Marianna, ti ringrazio per questa conversazione illuminante che ci ha aiutato a comprendere meglio le dinamiche dell'economia, dell'attenzione nell'era digitale. Grazie a te, Jack, per questa opportunità di approfondire un tema così importante per il nostro futuro digitale. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ricordate di visitare il nostro sito web per approfondimenti e risorse aggiuntive su questo tema. Alla prossima puntata! Prima di concludere definitivamente, Marianna, vorrei esplorare alcuni casi concreti che possono aiutare i nostri ascoltatori a comprendere meglio questi concetti. Hai qualche esempio particolarmente significativo da condividere? Certamente. Prendiamo il caso di un piccolo commerciante che cerca di vendere i suoi prodotti su Amazon. 10 anni fa, una buona descrizione del prodotto e recensioni positive erano sufficienti per ottenere visibilità. E com'è cambiata la situazione oggi? Oggi, anche con un ottimo prodotto e recensioni eccellenti, senza investire in pubblicità è praticamente impossibile apparire nelle prime pagine di ricerca. Amazon ha creato quello che chiamiamo un pay-to-play marketplace. Quali sono le conseguenze di questo cambiamento per i piccoli commercianti? I margini si sono drasticamente ridotti. I commercianti devono investire una percentuale significativa dei loro ricavi in pubblicità solo per mantenere la visibilità, il che porta a un aumento dei prezzi per i consumatori. È interessante come questo crei un circolo vizioso. Esattamente. E questo è solo un esempio di come le rendite algoritmiche influenzano l'intera catena del valore. Vediamo dinamiche simili su altre piattaforme. Puoi farci un esempio nel campo dei social media? Prendiamo Instagram. Un creatore di contenuti che nel 2015 raggiungeva organicamente il 15-20% dei suoi follower, oggi raggiunge meno del 5% senza investire in promozione. Questo significa che anche il settore creativo è stato profondamente influenzato da queste dinamiche? Assolutamente. I creator sono costretti a adattare i loro contenuti non solo alle preferenze del pubblico, ma soprattutto agli algoritmi delle piattaforme. Questo spesso va a discapito della qualità e dell'originalità. Mi viene in mente il recente caso di TikTok. Come si inserisce in questo panorama? TikTok è un caso interessante perché ha portato all'estremo il concetto di economia dell'attenzione. Il suo algoritmo è progettato per creare dipendenza attraverso un flusso continuo di contenuti ultra brevi e altamente stimolanti. Quali sono gli effetti di questo modello sulla nostra capacità di attenzione? Gli studi mostrano un impatto significativo sulla nostra capacità di concentrazione. Stiamo sviluppando quello che alcuni ricercatori chiamano attention deficit trait, una difficoltà crescente a mantenere l'attenzione su contenuti più complessi e articolati. Questo mi fa pensare alle implicazioni per l'educazione. Come possono le istituzioni educative affrontare questa sfida? È una domanda cruciale. Le istituzioni educative si trovano di fronte a una doppia sfida. Da un lato devono competere con contenuti sempre più stimolanti e di breve durata. Dall'altro devono preparare gli studenti a navigare consapevolmente questo ambiente digitale. Esistono già esempi di scuole o università che stanno affrontando efficacemente questa sfida? Sì, stanno emergendo approcci innovativi. Alcune scuole stanno integrando nei loro programmi corsi di alfabetizzazione digitale critica, che insegnano agli studenti a riconoscere le manipolazioni algoritmiche e a gestire consapevolmente la propria attenzione. Puoi farci un esempio concreto di come funzionano questi corsi? Un esempio interessante viene da un liceo di Milano che ha sviluppato un programma chiamato Digital Mindfulness. Gli studenti imparano a tracciare il proprio uso dei social media, analizzano i pattern di manipolazione e sviluppano strategie personali di gestione dell'attenzione. Quali sono stati i risultati di questa iniziativa? I risultati sono stati sorprendenti. Gli studenti hanno riportato un miglioramento nella capacità di concentrazione, una riduzione del tempo speso sui social media e, aspetto ancora più importante, una maggiore consapevolezza delle proprie scelte digitali. Questo mi fa pensare al ruolo dei genitori. Che consigli daresti alle famiglie? Il primo consiglio è di stabilire delle zone franche dalla tecnologia in casa, momenti e spazi dedicati all'interazione diretta. Poi è importante dare l'esempio. I bambini imparano più da ciò che vedono fare che da ciò che viene loro detto. Ma non c'è il rischio di demonizzare troppo la tecnologia? Assolutamente. L'obiettivo non è demonizzare, ma educare all'uso consapevole. La tecnologia è uno strumento potente che può arricchire l'apprendimento se utilizzato in modo appropriato. Parliamo delle aziende. Come stanno reagendo a questa crescente consapevolezza? Alcune aziende più innovative stanno iniziando a implementare politiche di digital well-being. Per esempio, alcune hanno introdotto le email free Fridays o stabilito orari in cui le notifiche vengono automaticamente disattivate. Queste iniziative stanno avendo un impatto significativo? I dati preliminari sono incoraggianti. Le aziende riportano un aumento della produttività e del benessere dei dipendenti. Inoltre, questi approcci stanno creando una nuova cultura aziendale più attenta alla qualità dell'attenzione. Mi sembra di capire che stiamo assistendo a una sorta di controrivoluzione dell'attenzione. È proprio così. Sta emergendo quello che potremmo chiamare un movimento per l'attenzione consapevole. Non è solo una reazione contro la tecnologia, ma un ripensamento del nostro rapporto con essa. Marianna, guardando al futuro, quali trend emergenti vedi all'orizzonte dell'economia dell'attenzione? Uno dei trend più interessanti è l'emergere di quello che viene chiamato Web3 e le tecnologie decentralizzate. Questi sviluppi potrebbero potenzialmente democratizzare il controllo dell'attenzione online. In che modo queste tecnologie potrebbero cambiare le dinamiche attuali? Immagina piattaforme social dove gli utenti sono effettivamente proprietari dei propri dati e della propria attenzione. Attraverso sistemi di token e smart contract, gli utenti potrebbero essere compensati direttamente per la loro attenzione, eliminando gli intermediari. Questo suona promettente, ma ci sono già esempi concreti di questo approccio? Sì, stanno emergendo piattaforme interessanti. Per esempio, ci sono browser che permettono agli utenti di guadagnare token quando visualizzano pubblicità, o social network che distribuiscono i ricavi pubblicitari direttamente agli utenti. Ma questi modelli alternativi possono davvero competere con i giganti tech esistenti? È una sfida significativa, ma vedo tre fattori che potrebbero favorire il cambiamento: la crescente consapevolezza degli utenti, l'evoluzione della regolamentazione e l'emergere di tecnologie che rendono possibili nuovi modelli di business. Parlando di regolamentazione, come vedi evolversi il quadro normativo nei prossimi anni? L'Europa sta guidando con il Digital Markets Act e il Digital Services Act, ma quello che mi aspetto è una regolamentazione ancora più mirata all'economia dell'attenzione. Per esempio, potrebbero emergere norme sulla trasparenza algoritmica e limiti alle pratiche manipolative. E come potrebbero reagire le grandi piattaforme a questi cambiamenti? Alcune piattaforme stanno già sperimentando con modelli ibridi. Per esempio, offrendo agli utenti la scelta tra un'esperienza basata sulla pubblicità e un abbonamento premium senza pubblicità. Ma la vera sfida sarà ripensare completamente il loro modello di business. Mi incuriosisce questa idea di modelli ibridi. Puoi fare qualche esempio concreto? Prendiamo Spotify come esempio. Offre un modello freemium che permette agli utenti di scegliere tra pubblicità e abbonamento. Ma immagina un futuro dove gli utenti possano guadagnare crediti attraverso l'ascolto consapevole, o dove gli artisti possano interagire direttamente con i loro fan senza intermediari. Questo mi fa pensare al concetto di attention mining. Come potrebbe evolversi? L'attention mining è un concetto affascinante che sta evolvendo rapidamente. Mentre oggi le piattaforme estraggono valore dalla nostra attenzione in modo unidirezionale, nel futuro potremmo vedere un sistema più equilibrato e reciproco. Come potrebbe funzionare questo sistema più equilibrato? Immagina un sistema dove ogni interazione online viene valutata in base alla qualità dell'attenzione investita. Per esempio, un commento thoughtful potrebbe valere più di un semplice like, e questo valore verrebbe distribuito tra creatore e consumatore del contenuto. Interessante. Ma come si può misurare la qualità dell'attenzione? Stanno emergendo tecnologie che possono analizzare il tempo speso, il livello di engagement, la profondità dell'interazione. Alcuni ricercatori stanno sviluppando metriche di attenzione qualitativa che vanno oltre i semplici click o visualizzazioni. Non c'è il rischio che questo porti a nuove forme di manipolazione? È un rischio concreto. Per questo è fondamentale che questi sistemi siano trasparenti e sottoposti a controllo democratico. La blockchain, per esempio, potrebbe garantire tracciabilità e verificabilità delle metriche di attenzione. Mi viene in mente il metaverso. Come si inserisce in questo scenario? Il metaverso rappresenta sia un'opportunità che una sfida. Da un lato offre nuove possibilità di interazione immersiva e significativa. Dall'altro potrebbe portare a forme ancora più pervasive di cattura dell'attenzione. Come possiamo prepararci a questi cambiamenti? La chiave è sviluppare quello che chiamo immunità cognitiva digitale. Significa essere consapevoli dei meccanismi che cercano di catturare la nostra attenzione e avere gli strumenti per gestirli attivamente. Puoi spiegare meglio questo concetto di immunità cognitiva digitale? Pensala come una forma di autodifesa mentale. Include la capacità di riconoscere i trigger emozionali usati dalla tecnologia, la consapevolezza dei propri pattern di utilizzo e la capacità di stabilire confini digitali sani. Come si può sviluppare questa immunità nella pratica? Ci sono tre passaggi fondamentali. Primo, fare un audit del proprio consumo digitale. Secondo, identificare i momenti in cui ci sentiamo manipolati. Terzo, sviluppare strategie personali di gestione dell'attenzione, come periodi di digital detox o l'uso di app di monitoraggio. Questo mi fa pensare al concetto di digi digitale di cui si parla nei paesi nordici. C'è una connessione? Assolutamente. Il concetto di digi digitale è un esempio perfetto di come diverse culture stiano sviluppando approcci unici al benessere digitale. Nei paesi nordici, questo significa creare momenti di connessione significativa sia online che offline. Come si manifesta questo approccio nella pratica quotidiana? Per esempio, molte famiglie nordiche praticano il digital sunset, spegnendo tutti i dispositivi un'ora prima di andare a dormire. Alcune aziende hanno adottato il fika digitale, pause caffè virtuali strutturate per favorire connessioni autentiche anche nel lavoro remoto. E in Italia, vedi emergere approcci culturali simili? Sì, sta emergendo quello che potremmo chiamare digital dolce vita. È un approccio che integra la tradizionale importanza italiana delle relazioni sociali con un uso più consapevole della tecnologia. Per esempio, alcuni ristoranti offrono sconti ai clienti che non usano il telefono durante il pasto. Interessante questo concetto di digital dolce vita. Puoi approfondire? L'idea è di preservare la qualità della vita e delle relazioni sociali nell'era digitale. Vediamo sempre più iniziative locali che promuovono un uso della tecnologia che rispetti i ritmi e le tradizioni della cultura italiana. Come si manifesta questo nelle diverse generazioni? È interessante notare come i giovani italiani stiano sviluppando un approccio più critico ai social media. Molti stanno riscoprendo il valore delle interazioni face to face e utilizzano la tecnologia in modo più strategico e consapevole. Questo mi fa pensare al ruolo delle comunità locali. Come possono contribuire a questo cambiamento? Le comunità locali stanno diventando laboratori di innovazione sociale digitale. Per esempio, alcuni comuni stanno creando zone di disconnessione nei parchi pubblici o organizzando eventi che combinano socialità tradizionale e tecnologia consapevole. Puoi farci qualche esempio concreto di questi eventi? Certo. A Milano, per esempio, è nato il movimento dei Digital Social Gardens, dove le persone si incontrano per coltivare orti urbani utilizzando app di giardinaggio comunitario. La tecnologia diventa uno strumento di connessione sociale, non di isolamento. Come possono le istituzioni culturali partecipare a questa trasformazione? Musei, biblioteche e centri culturali stanno sperimentando con quello che chiamerei digital enrichment. Utilizzano la tecnologia per arricchire l'esperienza culturale, non per sostituirla. Per esempio, alcuni musei offrono esperienze di realtà aumentata che stimolano l'interazione sociale tra i visitatori. Sembra che si stia sviluppando un nuovo equilibrio tra digitale e analogico. Esattamente. Stiamo assistendo all'emergere di quello che chiamo digital equilibrium, dove il digitale e l'analogico non sono in competizione, ma si completano a vicenda per creare esperienze più ricche e significative. Come si manifesta questo equilibrio nel mondo del lavoro? Un esempio interessante viene dalle aziende che stanno adottando il modello Figital. Combinano riunioni fisiche con strumenti digitali di collaborazione, creando spazi di lavoro ibridi che massimizzano i benefici di entrambe le modalità. Puoi farci un esempio concreto di come funziona questo approccio? Prendiamo una società di design italiana che ha creato quello che chiamano Digital Pause Rooms. Sono spazi fisici dove i team si incontrano per sessioni di brainstorming analogiche, ma possono facilmente digitalizzare e condividere i risultati attraverso strumenti collaborativi. Quali benefici hanno osservato con questo approccio? I risultati sono stati sorprendenti. Hanno registrato un aumento del 40% nella qualità delle idee generate e, ancora più importante, un miglioramento significativo nel benessere dei dipendenti e nella loro capacità di mantenere l'attenzione su progetti complessi. Come possono le piccole imprese implementare questi concetti con risorse limitate? Non serve necessariamente un grande investimento. Si può iniziare con pratiche semplici come stabilire zone di focus nell'ufficio, implementare pause digitali strutturate, o creare rituali di team che combinino elementi digitali e analogici. E per quanto riguarda il settore dell'istruzione? Come si sta evolvendo questo equilibrio nelle scuole? Le scuole più innovative stanno sviluppando quello che chiamo Blended Learning 2.0. Non si tratta più solo di alternare lezioni online e in presenza, ma di creare esperienze di apprendimento che integrino naturalmente elementi digitali e analogici. Puoi darci qualche esempio pratico di questo approccio? Un esempio interessante viene da una scuola di Roma che ha creato giardini digitali dell'apprendimento. Gli studenti utilizzano sensori e app per studiare la crescita delle piante, ma il lavoro pratico nel giardino rimane fondamentale. La tecnologia supporta l'esperienza diretta invece di sostituirla. Questo mi fa pensare al ruolo dei genitori. Come possono promuovere questo equilibrio a casa? Una strategia efficace è creare quello che chiamo momenti di connessione ibrida. Per esempio, usare app di cucina insieme ai bambini mentre si prepara una ricetta, o utilizzare app di astronomia durante l'osservazione del cielo notturno. Sembra che la chiave sia trovare modi per utilizzare la tecnologia come strumento di amplificazione dell'esperienza reale. Esattamente. La tecnologia dovrebbe essere un amplificatore delle nostre capacità e delle nostre esperienze, non un sostituto. E questo ci porta a considerare le tendenze future di questa evoluzione. Quali sono le tendenze più promettenti che vedi emergere? Una delle più interessanti è l'emergere di quello che chiamo tecnologie rigenerative. Sono strumenti digitali progettati non solo per catturare l'attenzione, ma per aiutarci a rigenerare la nostra capacità di concentrazione. Puoi farci qualche esempio di queste tecnologie rigenerative? Penso alle nuove app di meditazione che utilizzano il biofeedback per aiutarci a comprendere meglio i nostri stati mentali, o ai sistemi di intelligenza artificiale che ci aiutano a identificare e correggere i nostri pattern di distrazione. Questo sembra un cambio significativo rispetto all'approccio attuale delle piattaforme digitali. Infatti, rappresenta un completo ribaltamento del paradigma attuale. Invece di progettare per la dipendenza, queste tecnologie sono progettate per l'empowerment dell'utente. È quello che chiamo il passaggio dalla attention extraction alla attention cultivation. Come si manifesta questa attention cultivation nella pratica? Un esempio concreto sono i nuovi ambienti di lavoro digitali che incorporano pause programmate, esercizi di mindfulness e strumenti per il monitoraggio del benessere cognitivo. L'obiettivo non è massimizzare il tempo di utilizzo, ma ottimizzare la qualità dell'attenzione. E per quanto riguarda il futuro dei social media, come potrebbero evolversi in questa direzione? Stanno emergendo piattaforme social che premiano la qualità dell'interazione invece della quantità. Alcuni esperimenti interessanti includono reti sociali che limitano il numero di post giornalieri o che richiedono un periodo di riflessione prima di pubblicare contenuti emotivi. Ma questi modelli alternativi possono davvero competere con i giganti attuali? Credo che stiamo raggiungendo un punto di svolta. La crescente consapevolezza dei costi dell'economia dell'attenzione sta creando una domanda per alternative più sostenibili. È simile a quello che è successo con il movimento del cibo biologico. Questa è un'analogia interessante. Puoi elaborare? Come il movimento del cibo biologico ha iniziato come nicchia e poi ha trasformato l'intera industria alimentare. Credo che il movimento per una tecnologia più etica e sostenibile stia raggiungendo una massa critica. Le grandi piattaforme dovranno adattarsi o rischieranno di perdere rilevanza. Quindi sei ottimista sul futuro dell'economia dell'attenzione? Sì, sono cautamente ottimista. Vedo tre tendenze positive che convergono. Una maggiore consapevolezza collettiva, l'emergere di tecnologie più etiche e un quadro normativo più maturo. Ma la vera chiave del cambiamento sarà la nostra capacità di rimanere vigili e proattivi. Quali sono le azioni concrete che possiamo intraprendere oggi per contribuire a questo cambiamento positivo? Innanzitutto, dobbiamo essere più consapevoli delle nostre scelte digitali. Secondo, possiamo supportare attivamente le piattaforme e le tecnologie che rispettano la nostra attenzione. Terzo, è importante partecipare al dibattito pubblico su questi temi. Mi piacerebbe concludere ripercorrendo i punti chiave della nostra discussione. Quali sono stati i temi fondamentali che abbiamo esplorato? Abbiamo iniziato parlando di come le piattaforme digitali hanno trasformato l'attenzione in una risorsa monetizzabile attraverso algoritmi sempre più sofisticati. Abbiamo poi esplorato l'impatto di questo sistema sulla società, sull'educazione e sul benessere individuale. E abbiamo anche discusso di soluzioni e alternative. Esatto. Abbiamo visto come stanno emergendo nuovi modelli di digital equilibrium, tecnologie rigenerative e approcci culturali più consapevoli all'uso della tecnologia. La chiave è passare da un modello estrattivo a uno rigenerativo dell'attenzione. Cosa diresti ai nostri ascoltatori che vogliono iniziare questo percorso di consapevolezza digitale? Il mio consiglio è di iniziare con piccoli passi concreti. Fate un audit del vostro consumo digitale, stabilite dei confini chiari e cercate di essere più consapevoli di come e perché utilizzate la tecnologia. Non è necessario disconnettersi completamente, ma trovare un equilibrio personale. E per le organizzazioni e le imprese? Per le organizzazioni, è fondamentale iniziare a considerare l'attenzione dei dipendenti e dei clienti come una risorsa preziosa da proteggere e coltivare, non da sfruttare. Questo significa ripensare processi, strumenti e culture organizzative. Un messaggio finale per i nostri ascoltatori? L'economia dell'attenzione non è un destino inevitabile, ma una scelta collettiva. Abbiamo il potere di plasmare il futuro digitale che vogliamo, ma dobbiamo agire consapevolmente e in modo coordinato. Il cambiamento inizia dalle nostre scelte quotidiane. Marianna, grazie per questa conversazione illuminante che ci ha aiutato a comprendere meglio le sfide e le opportunità dell'economia dell'attenzione. Grazie a te, Jack, per questa opportunità di approfondire un tema così cruciale per il nostro futuro digitale e sociale. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ricordate di visitare il nostro sito web per risorse aggiuntive e approfondimenti su questo tema. Alla prossima puntata!